benvenuti. Allora, oggi ci troviamo di fronte a una domanda che sembra quasi una provocazione. In un'epoca in cui le IA possono scrivere un romanzo, una poesia, una sceneggiatura in pochi secondi, che senso ha ancora un software di scrittura che non scriva al posto nostro? È una domanda fondamentale. C'è ancora spazio per una tecnologia che si limita, diciamo, ad assistere, a suggerire? E per cercare una risposta, oggi facciamo un'indagine un po' particolare. Abbiamo sul tavolo le prove di tre filosofie molto diverse. Tre approcci. Proprio così. Da una parte, i manuali di due applicativi modernissimi, Fiaba Universale, che sposa in pieno la logica generativa, e Hyperfiaba, che va in una direzione, direi, sorprendente. E poi c'è il pezzo forte. Hyperfiaba prende il nome. La nostra missione, quindi, non è solo confrontare tre software. No, è confrontare tre idee di creatività. Partiamo dal modello che oggi va per la maggiore, l'IA come autore. Il nostro primo caso è Fiaba Universale. Ok. Stando al manuale, è uno strumento che si basa sulle famose 31 funzioni narrative di Vladimir Propp per generare fiabe. L'idea di fondo è netta. L'umano imposta la struttura, fornisce qualche dettaglio, ma poi si fa da parte. A scrivere, a mettere nero su bianco, è l'intelligenza artificiale. In questo caso un modello che gira in locale con Ollama, se non sbaglio. Proprio così. E il processo è quasi, direi, chirurgico. Hai la lista delle 31 funzioni di Propp e spunti quelle che vuoi. Non so, allontanamento, lotta, lieto fine. Una sorta di menu. Esatto. Per ogni funzione c'è un piccolo campo dove inserisci un dettaglio. Per la lotta, ad esempio, puoi scrivere «L'eroe incontra un drago verde che sputa fiamme color cobalto». Ok, quindi fornisci gli ingredienti chiave. Una volta completata questa ricetta, si genera il prompt. E fermiamoci un attimo su questa parola, prompt. Giusto. Il manuale lo liquida come le istruzioni per la macchina, ma forse vale la pena approfondire. Assolutamente. Possiamo immaginarlo proprio come una ricetta dettagliatissima. Chiediamo a uno chef, che in questo caso è l'IA. Più la ricetta è precisa, cuoci per 10 minuti a 180 gradi. Migliore sarà il piatto. Certo. In Fiaba Universale, il software compila questa ricetta per noi basandosi sulle funzioni e sui dettagli. Poi basta un clip su Scrivi Fiaba e l'IA sforna il testo. Ok, il meccanismo è chiaro. Ma qui sorge la mia prima grande domanda. Se il contributo umano si limita a scegliere da una lista e scrivere poche frasi, si può ancora parlare di scrittura creativa da parte sua? È la domanda fondamentale. O siamo più nel campo della curatela, della regia? E la risposta che questo software sembra dare è che la creatività si è spostata. Non è più nell'atto di scegliere le parole, di tessere le frasi. Quello è un lavoro delegato. Quindi la creatività umana dove sta? Sta nell'architettura, nella capacità di orchestrare la struttura secondo uno schema preesistente, quello di Propp. È un approccio che potremmo definire prescrittivo. Aspetta, prescrittivo? Suona quasi come un insulto per un creativo. Lo so, la parola ha una connotazione quasi medica, rigida. Sembra l'antitesi dell'arte, no? L'idea che un software mi prescriva come devo scrivere. Hai ragione, ma è perfetta per descrivere questa filosofia. Qui il software non ti suggerisce, ti prescrive una cura, una formula. E l'arte non sta nell'inventare la formula, ma nel saperla applicare. È un cambio di paradigma totale. Esatto. Il software non è una pagina bianca, è uno stampo. L'utente sceglie la forma dello stampo, il colore dell'impasto. Ma a colare il materiale è la macchina. E questo si vede anche nel prodotto finale. Spulciando il manuale ho notato un dettaglio interessante. L'output non è solo il testo della fiaba. Ah, no? Cos'altro c'è? Il programma genera anche tre prompt per immagini, per inizio, climax e fine, e addirittura un video prompt per creare uno spot pedagogico che riassuma la morale. Certo. E questo non è un dettaglio, è la chiave di volta. Ci dice che l'obiettivo non è semplicemente scrivere un testo, ma produrre un pacchetto di contenuti multimediali pronto all'uso. Una catena di montaggio. Praticamente. La logica non è quella dell'artista nel suo studio, ma quella del produttore di contenuti. Questo modello, quindi, rappresenta una visione chiara dell'IA. Un esecutore efficiente, un autore artificiale a cui si danno istruzioni per ottenere un prodotto finito e multipiattaforma. D'accordo, quindi da una parte abbiamo questa visione. li ha come una fabbrica di storie. E fin qui tutto torna con l'idea che abbiamo oggi di IA generativa. Ma la cosa interessante è che non è l'unica via possibile. Anzi, c'è un'altra filosofia che va nella direzione opposta e la troviamo nel nostro secondo strumento, la versione moderna di Hyper Fiaba. Ah, ecco. La differenza si coglie subito, fin dalla prima riga del manuale. Non lo definisce un generatore, ma un laboratorio di scrittura. E poi c'è una frase in grassetto, che è una vera dichiarazione d'intenti. E dice? L'uso dell'intelligenza artificiale è completamente facoltativo. E questo cambia tutte le carte in tavola. Se l'IA è opzionale, vuol dire che il cuore del software sta da un'altra parte. Esattamente. E il cuore è la sua architettura. È diviso in tre ambienti. C'è la stesura, il classico foglio di scrittura, poi l'ambiente scalette, un archivio di strutture narrative, prop o il viaggio dell'eroe. Quindi non solo prop? No, molto di più. E poi il mio preferito. L'ambiente materiali. Questo è un vero e proprio magazzino di idee. Ci sono archetipi di personaggi, dall'eremita delle vette al necromante corporate. Necromante corporate è fantastico. Vero. Oggetti magici, luoghi, tutto catalogato. È come avere tre stanze della mente, ma in ordine su uno schermo. Quindi, se ho capito bene, non c'è un pulsante «scrivi la storia». L'utente naviga tra questi materiali e li usa come ispirazione. Proprio così. C'è una funzione cruciale, un pulsante chiamato «prendi». Permette di selezionare un elemento, che so, la descrizione di un personaggio, e di trasferirlo nel foglio di scrittura per poi lavorarci sopra. E l'IA? Quando entra in gioco? Se proprio vuoi, puoi invocarla per espandere una descrizione o suggerire un dialogo, ma è un'azione attiva e volontaria dell'utente. Il confronto con Fiaba Universale qui è illuminante. Assistiamo a un totale ribaltamento dei ruoli. In Hyperfiaba l'autore è e rimane umano. Certo. Il software non si sostituisce a chi scrive, ma fa due cose fondamentali. Fornisce ispirazione con i materiali e offre struttura con le scalette. Quindi l'IA qui è un consulente a chiamata, uno stagista a cui chiedi un'idea quando sei bloccato. È un'ottima analogia. Un copilota, come lo definiscono alcuni. Non guida l'aereo al posto tuo. Ti legge la mappa se glielo chiedi o ti segnala una turbolenza. Mm-hmm. E il flusso di lavoro che consiglia il manuale è molto significativo. Parti da una scaletta, vai nel magazzino a scegliere personaggi e oggetti e solo dopo torni a scrivere per riempire gli spazi. Quindi non è automazione della scrittura? No. È un modello del processo creativo umano, reso visibile e navigabile. Il software supporta il processo, non lo esegue. E la cosa che mi ha lasciato a bocca aperta è che questa idea di copilota, di ambiente di supporto, non è una trovata recente. Anzi, per scoprirne le radici dobbiamo fare un salto indietro di 30 anni. Ed è qui che entra in gioco il nostro terzo documento, l'articolo del 1991. Esatto. L'articolo, scritto dal gruppo Informatica e Didattica del CIDI di Torino, ci svela che Hyperfiaba nasce come progetto didattico. Il contesto è incredibile. Parliamo di un software in HyperPad 2.0 per DOS. Per DOS? Davvero? Sì, progettato per funzionare su computer tecnologicamente poveri, con processori 8086 e due lettori floppy. Cioè, roba da museo dell'informatica. È sbalorditivo. Dimostra che l'idea era così forte da poter essere implementata anche con una tecnologia che oggi ci sembra preistorica. Ma la domanda è, perché? Che problema cercavano di risolvere nel 91 con un ipertesto per DOS? Non c'era certo il blocco dello scrittore causato da un'IA troppo efficiente. No, direi di no. Il problema era molto più basilare. L'articolo parla delle scarsissime competenze di scrittura degli allievi, ma il punto debole non era solo la grammatica, era la fase di ideazione. La pagina bianca. Esatto. Trovare le idee e organizzarle. I word processor dell'epoca erano fantastici per correggere, ma non offrivano nessun aiuto in quel momento. E la loro soluzione fu? L'indonazione fondamentale fu usare l'ipertesto per creare quelli che l'articolo chiama spazi logici. Ed erano esattamente gli antenati degli ambienti di oggi. Uno spazio per la stesura, uno per la progettazione, le scalette, e un terzo spazio, quello dell'ideazione, con i materiali. Quindi gli ambienti di cui parlavamo, stesura, scalette, materiali, sono l'evoluzione diretta di quell'idea nata per le scuole. È pazzesco. Assolutamente. E la finalità era puramente pedagogica. Lo studente per la prima volta poteva evocare la descrizione di un castello o le caratteristiche di un eroe con un comando. Deve essere sembrata magia. Ma la cosa più importante, sottolineata dall'articolo, è che gli studenti potevano modificare, aggiungere e copiare scalette materiali. Questo li trasformava da utenti a autori del loro stesso ambiente di apprendimento. Quindi non stavano solo imparando a scrivere una storia. Esatto. Stavano imparando come si progetta una storia. L'obiettivo non era creare scrittori, ma, e qui cito, far compiere esperienze formative di produzione guidata e consapevole di testi. Il software era un'impalcatura, uno scaffolding cognitivo. Proprio così, per rendere visibili le fasi invisibili della scrittura. E c'è una visione quasi profetica in quell'articolo. Fammi indovinare. Non pensavano solo alle fiabe. Bingo. Anticipano l'idea di una struttura astratta che chiamano hyper, svuotabile dei contenuti della fiaba e riutilizzabile per qualsiasi genere. Hyper avventura, hyper giallo. Stavano già pensando a un modello generale. Un laboratorio per il pensiero, non solo per le storie. Ok, fermiamoci un attimo a tirare le fila, perché il percorso è stato denso. Siamo partiti chiedendoci perché nell'era dell'IA potesse esistere un software che si limita ad aiutare. Abbiamo visto un primo modello, Fiaba Universale, la macchina autrice, poi Iperfiaba, l'assistente opzionale, e infine la sua origine, un progetto didattico del 91. Credo che la risposta inizi a prendere forma. Se colleghiamo i punti non emergono solo tre software, ma tre scommesse completamente diverse su cosa sia la creatività e su come la tecnologia debba rapportarsi ad essa. Proviamo a definirle. Qual è la prima scommessa? La prima è quella di Fiaba Universale. È una scommessa sulla creatività come formula. Scommette che ogni storia, in fondo, si possa scomporre in una serie di funzioni. L'IA è il calcolatore, che risolve l'equazione. L'umano inserisce le variabili. L'obiettivo è al prodotto finale, efficiente. Esatto. La seconda scommessa, quella di Hyperfiaba Moderno. Qual è? È la scommessa opposta, quella sulla creatività come caos da organizzare. Scommette che la mente dello scrittore sia un magazzino pieno di idee e che il blocco nasca dalla difficoltà di trovare la cosa giusta al momento giusto. E il software è lo scaffale, il sistema di archiviazione. Proprio così. L'IA è l'assistente di magazzino che ti passa uno scatolone, se vuoi. L'obiettivo è supportare il processo, non sostituirlo. E infine la scommessa più vecchia, quella del 1991. Quella è forse la più profonda. È la scommessa sulla creatività come processo da imparare. Non la dà per scontata. La vede come un'abilità che si può insegnare. Il software è il campo di addestramento. La palestra. La palestra che rende visibili i muscoli del pensiero narrativo. L'obiettivo non è il prodotto, né il processo, ma la consapevolezza di quel processo. È davvero notevole. Quindi, la risposta alla nostra domanda è che un software che non scrive al posto nostro ha senso se la sua scommessa non è sulla produzione, ma sul potenziamento del processo o sull'apprendimento. Esattamente. L'idea di un software che aiuta a pensare invece di pensare al posto nostro non è una reazione moderna all'IA, ma ha radici profonde. Certo. E questa distinzione tra prodotto, processo e apprendimento ci lascia con una domanda aperta che nasce proprio da quell'articolo del 91. Ah sì? Loro descrivevano Hyper come una struttura astratta, applicabile a qualsiasi testo. Ora proviamo a prendere quella stessa idea oggi, con la potenza delle IA moderne e la filosofia del copilota. Come potrebbe essere un Hyper progettato non per una fiaba, ma per costruire, che so, una ringa legale? O per sviluppare un'ipotesi scientifica? Bella domanda. Gli spazi logici cambierebbero completamente. Esatto. Come cambierebbero gli spazi di ideazione, progettazione e stesura in questi nuovi domini? Quali materiali e scalette servirebbero a un avvocato per strutturare una difesa? O a un ricercatore per formulare un esperimento? La domanda che ci lascia questa indagine forse non è più solo come può la tecnologia scrivere per noi. Ma una più importante. Sì. Come può la tecnologia aiutarci a pensare meglio?